devo dire che tu, anche se parli sottovoce a 20 metri di distanza, sono convinto che ti sento ugualmente bene. Sì, è forte, questo microfono è forte, è super modulato questo, anzi ipermodulato per l'abilità, si dice in italiano. Va benissimo, ho dovuto abbassare anche il volume, ho lì, perché per me era troppo forte. Caro, ne vado a basso, allora, perché lo dico che è troppo forte, lo porto a un quarto, va bene così. Sì, adesso ho migliorato, però volevo dirti che andava bene anche prima, non c'era problema. L'ho abbassato io per mia comodità, rispetto alle altre modulazioni, che era molto più forte, ecco cosa intendevo dire. Non intendevo dire che non andava bene, perché andava bene ugualmente, ma rispetto alle altre modulazioni era fortissimo, perlomeno qui alla mia stazione. Vai e fai girare. Capo, no, ho abbassato perché a Marcolino io troppo forte, ma è da abbassare che non capisco granché tutto qua. Poi ho anche la modulazione molto grossa, capito? Come voce. Va bene, ok, Marcolino, ripeti. Sì, voi certe volte è la parlata veloce che confonde. Se uno vuoi fare una battuta veloce, una cosa, certe volte sembra che tu vada in extra beat, non so come spiegarlo. Io andavo bene a fare la pubblicità, gira gira, dai. Dovevi fare gli scioli lingua. Ti ricordi Alberto Sordi nel film? Aspetta, com'è il film? Era quello dove lui aveva quei dentoni e faceva il presentatore, dovevo assumerlo come presentatore del telegiornale, no? E praticamente passava tutti gli scioli lingua che gli davano, volevano per forza non bocciarlo, come si dice, non ammetterlo dicendo che non era idoneo, facendogli sbagliare così, perché aveva questi denti esageratamente lunghi da cavallo, eppure era di una bravura, ma di una bravura. Te lo ricordi quel film, che è bello? Sì, me lo ricordo quel film, ovviamente si bucciava. No, ma io diciamo, come scioglie lingua, ho imparato bene il sassarese quando dice quando ho fame, sete, sonno, mangio, bevo e dormo. E il sassarese lo dico così: quando ho fame, sete, sonno, mangio, mica dormo, non faccio più fame, né sete, sonno. Già non ci ho capito la mazza. In italiano l'ho capito, ma sassarese è troppo veloce. E poi in realtà io non è che lo parli, Non posso capire qualche termine, ma non tutto. Giulio, come sono andato? Benissimo, Tony. Comunque, quello che ti volevo dire anch'io me l'ha anticipato Marco, quello che ti volevo dire. Il fatto che tu parli molto veloce, no? E probabilmente qualcuno magari si può lamentare perché essendo molto forte la radio, allora potrebbe anche essere non molto chiara, chiarissima. Io ripeto, quando sento così abbasso il volume e dunque ovvio a qualsiasi problema, per cui non c'è problema, perché lo so, tu hai una caratteristica particolare, hai una velocità di lingua straordinaria, a differenza magari di diversi di alcune persone di noi, no? E per cui avendo un microfono molto alto, alle volte può succedere che uno o qualche parola possa sfuggire, ecco appunto, questo che volevo dirti. Però detto questo, la radio è sempre ultima, sempre bella, sempre chiarissima. Ripeto, io in quel caso lì abbasso il volume, non so come andrò, allungo la mano e abbasso il volume, e così mi viene bene l'ascolto anche della tua modulazione, anche se parli a velocità supersonica, Tony. No, ma anche il geometra lo diceva dall'altro, ma capo, ascolta, non ti sta seguendo nessuno, fa la calma che non ti capisco. Allora cercavo di sforzarmi a parlare piano piano al lettatore, non mi ascolta se fa tutto comunque, va bene. Comunque vizio mio da piccolo, dai, quindi me lo sono riportato nel andare degli anni. Ok, vabbè, parliamo così almeno ci capiamo tutti, così non sai di col braccio alzare e abbassare. Avanti, Marcoli. Sì, vi assillo solo per un altro passaggio. Dovreste fare un attimino di bianco da quando stacco a quando riattacco, un attimino, eh? Allora ascoltate bene questa timbrica. Quattro dita alla mic, 1, 2, 3, 4, 5. Fermi tutti, eh. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre quattro dita al mic, stesso tono di parlata, però questo è il KPO. E cosa vi sembra la differenza tra le due timbriche? Quale vi piace di più? K. A me questa piace moltissimo, perché rimane con gli acuti un po' altini, meglio dell'altra, però la radio è sempre perfetta a 5, non fa una grinza. Giulio? Sì, confermo quello che ha detto Tonino, la radio è ultima. ottima, comunque tutte e due le versioni, sia l'uno che l'altro microfono, perciò non c'è problema, Marco. No, tu hai una timbrica particolare, non come me ad esempio, che ho solo toni alti e niente bassi. Infatti io utilizzo l'MB più 4 proprio perché ha un po' la caratteristica dei toni bassi l'MB più 4. Se io cambio microfono invece ho troppi toni alti e niente bassi. Non è certamente bella la modulazione, io me ne rendo conto, lo so benissimo. Purtroppo quello lì è una dote della caratteristica personale, non è un problema. Io modulazioni belle ne sento diverse, ma comunque quello di Tonino, come stava dicendo, se lui parla un pochino più piano e magari anche più lontano, probabilmente è migliore ancora, ma non la disegno nella maniera più assoluta. Anche Gianni ha un'ottima modulazione, bella, chiara, squillante, all'infuori di quando magari non schiaccia bene il microfono e dunque non esce nel radio. Vediamo un po' se adesso riprende. Gianni? Non riprende, aspetta, lasciamogli il tempo. Un attimino. Allora, per dovere di cronaca, solo per quello, vi faccio sentire il mic originale di questo apparato. Mic originalissimo del 3009, che è diverso però dai vecchi mic del 3009. Ecco qua. Nuda, cruda, di meno non si può fare. Ecco, così avete un riscontro, tanto per curiosità a me, per passare il tempo. Vai, Tonino. Ecco, io ho cambiato anche il microfono. Sto usando un MB più 4. Da tavolo. Ok, niente, questa radio la sento perfetta, chiara, serena e buona anche questa, non c'è da dirgli niente, tu hai cambiato già tre microfoni, ti posso dire che la radio è sempre perfetta 5, questa si sente che non è molto amplificata ma è ottima come modulazione. Eia, sì, è tutto originale, ma è che è originale, forse c'era una spugnetta troppo spessa e l'avevo tolta, ma non sono sicuro nemmeno. Ok, il mic originale, poi questo baracchinetto c'ha il trimmer dell'M tutto aperto, perché prima era veramente troppo chiuso, l'ho messo a metà, poi l'ho messo direttamente a manetta e quindi gli amplificati spingono, e mentre sull'altro 3009, quello con display blu, è a metà, perché quello sarebbe omologato quasi, no? E lì però se metti l'amplificato fa da collo di bottiglia e non spinge, più di tanto lo spinge, qua invece spinge molto di più. K. Vai Giulio, poi rilancia se è rientrato Gianni. Ok, ho lasciato qualche secondo di spazio. Sì, ottima anche questa la modulazione, Marco, ma te l'ho sempre detto, le tue modulazioni sono sempre state molto apprezzabili, per cui non c'è problema. Anche questa io l'ho sentita adesso leggermente, ma veramente leggermente più bassa, però di ottima fattura, di ottimissima qualità, non c'è problema, alla grande. Va bene, io con questo baracchino posso anche correggerla, posso ottenere i toni alti oppure i bassi, per cui a mio piacimento, a secondo di come la sento io, posso correggerla. Però ripeto, in qualsiasi versione che io metto qui va sempre bene, non c'è problema, non c'è assolutamente problema. Però devo dire che a me piace la modulazione corposa con la timbrica, come può essere quella di Tonino, quella di Claudio ad esempio, o anche quella di Natalino quando parla come si deve, nel senso che mette i suoi 4 watt e non 2, per dire, e arriva con una bella modulazione corposa, almeno questo è sempre la mia attrazione. Vai Tony. Io sto usando adesso l'MB più 4 da tavolo, com'è la radio Giulio? Ottima, devo dire ottima, veramente ottima, anzi ti dirò di più, per lunga conversazione, questa è una radio adattissima per lunghissima conversazione, a differenza di quando stavi usando l'altro microfono che era sì più forte, però era per conto mio esagerata, nel senso che io dovevo abbassare il volume, invece adesso l'ho lasciato allo stesso livello di quello di Marco come volume e la modulazione è perfetta, proprio pacata come piace a me, qualcosa così. Vai Tony. Capo, ti ringrazio per i controlli, dai. Ok, anche a te arrivo bene Marcoli, dai. Sì, noi la prova l'avevamo fatta anche stasera prima, molto prima, e in effetti questa è più da salotto, da chiacchierata, no? Anche di notte, sai, quando magari tutti devono avere un volume simile, no? Di modulazione, l'altro è per il radio X, è proprio radio X selvaggio per lunghe distanze quando sei basso di segnale, capito? Bene, bene, bene, tante prove, tutto, tutto buono, dai. Comunque bene o male tutti i baracchinetti che escono grosso modo limpidi di motorazione, qua raramente hanno avuto che uscivano cupi, ed erano i vecchi FM 500S, quello me lo ricordo, 548, magari potevi correggere con un amplificato, no? Che usciva un po' più acuto e quindi compensavi l'effetto cupo, però a me il modulatore di quegli apparati non piaceva, di serie, e poi senza modificarli, perché se ne modificavi decadeva sia la garanzia che l'omologazione, capito? Quindi quelli si lasciavano, quell'epoca l'escoposta era particolarmente tedioso. Erano venuti anche qua, al Giulio, non so se avevo mai raccontato, per via del TVI selvaggio, noi avevamo 23 canali americano, no? Usciva di una limpidezza, di una pulizia unica, forte anche di modulazione, ma limpido, ma facevamo TVI a tutta Vianizza. E siccome la residenza era in Vianizza e noi eravamo in Viale Mamiri, ma hanno cercato qua ma non hanno trovato nessuno, allora avevano corretto la lettera a penna rossa e mandata all'altro indirizzo, che non so come abbiano scoperto. Scoppiato Giulio. Scusami, mi ero assentato un attimo che stavo parlando con mia figlia qui, che è appena rientrata da un concerto che hanno terminato 10 minuti, un quarto d'ora fa. Va bene, sì, no, ma in parte ho seguito la primissima parte, poi il resto non l'ho seguito, scusami Marco, dai, continua pure, vai. E praticamente erano venuti qua a controllare le scoposte per via del TV selvaggio all'epoca, sto parlando del seconda metà anni 80, no? Ma tipo 85-86, perché quel baracchino americano, l'Ixtal o Xtal, 23 canali, era forte in modulazione, ma limpidissimo, ma faceva un TVI terrificante. Ma sai cosa vuol dire terrificante? E praticamente noi avevamo il domicilio da una parte, ma la residenza da un'altra, e loro erano venuti qua quando noi abitavamo per in Viale Mameli, capito? Ho capito, sì, ho capito, oh Marco, e vabbè, altri tempi, dai, oggi probabilmente non succede questo, perché dipendeva, per quanto ne so io, tu lo sai, io ho fatto tanti anni anche la tennista quando ero ragazzo, quando ero giovane, no? E devo dirti una cosa, il fatto del TVI, c'erano quei vecchi televisori col tubo cattolico che avevano la media frequenza, che raccoglieva qualsiasi interferenza, anche se passava un uccello vicino all'antenna, sembrava che anche quello desse fastidio. Invece no, oggi è tutto diverso, ha fatto il fatto di un digitale terrestre, eccetera, eccetera. Però quel tipo di televisore era così, indipendentemente anche dal fatto che uno poteva avere anche l'impianto d'antenna messo male, tu lo sai, no? Arrugginito, cavo ossidato, eccetera, eccetera. Insomma, deve essere perfetto in tutti i sensi. Ma non era comunque quell'apparecchio lì, non era quello che il solo che facesse TVI, perché c'era il Pony, quello della stazione base, per carità di Dio, quella era veramente un disastro totale, perché quello non una persona, ma tutto il quartiere interferiva. Magari Tonino l'ha conosciuto benissimo quel tipo di apparecchio, visto che c'è 40 anni e oltre per questa. Vai Tonino. Mi ero un po' distratto perché mi ero allontanato ad andare in bagno, quindi ho capito ben poco, Giulio, di cosa ti riferivi. Mi vuoi accennare a qualcosa, lucidarmi la mente? Certo, no, stavo parlando di apparecchio che faceva TVI negli anni passati, no, quello che aveva Marco, e io appunto mi è venuto in mente che non era l'unico apparecchio che faceva TVI, perché il record della TVI io lo ho addebitato al Pony da base, quello di una volta, quello 23 canali con l'orologio, eccetera, eccetera, ti ricordi? Cappa, se me lo ricordo, quello del Pony, sì, la voglia. C'era anche lo Zodiac con l'orologio, sempre stazione base. Sì, in effetti anche il fattore di altri televisori, non diciamo all'avanguardia come siamo oggi, oggi tutto a LED, insomma, è tutta una cosa diversa. Infatti TVI oggi quasi niente, zero, perché i servizi sono cambiati, i baracchini diciamo bene o male, i baracchini proprio degli anni che furono ce ne sono pochi in circolazione, gli altri sono dagli 80 in su, penso 90, e quindi i primi primi sì, usciamo un po' di spurie, ma comunque, ma in effetti oggi è tutto regolare, grazie a Dio non disturbiamo nessuno. Poi l'antenna di Santa delle altre antenne, c'era Natalino, poi faceva TVI, capito? E forse la posizione sua pure. Sono tanti fattori comunque, dipende da quello, c'aveva l'antenna proprio vecchia, stravecchia, rugginosa, e quindi prendeva tutta la mondezza, giustamente. Tutte le onde che passavano vicino le prendeva. Poi Natalino ha trovato, diciamo, la miglior cosa, collegarsi all'antenna sua, e infatti, perché Natalino la sua non disturbava. E così quel signore si può guardare tutte le partite, non è proprio più le scatole a nessuno. E così tutte pace e tranquillità. Bene, bene, oh, fuoco a parte scherzi, sono già meno 20 passati, voglio guardarmi un po' la telegiornale. Io vi lascio con un po' di malincuore perché volevo continuare a parlare, però ripeto, vi devo anche preparare la cena. Vi saluto cordialmente, grazie della compagnia, ciao Giulio, stai bene, un abbraccio, ciao Marcolino, alla prossima, ci sentiamo, statemi bene, riprendi Giulio. Ok Tony, grazie, grazie di tutto, dai, grazie della chiacchierata, ricambio l'abbraccio, eccetera, eccetera, speriamo di vederci presto, perché vabbè io in questo periodo sono un po' assente, anzi un po' molto, tra controlli fisici, eccetera, tu lo sai, no? Sono sempre sotto controllo, anche da poco sono dovuto andare a Ozieri per controlli eccetera eccetera, anzi due volte, per due giorni differenti l'uno all'altro sono dovuto andare, per cui vabbè ormai sono cubiccio e dunque bisogna pagare anche la tassa del ticket, bisogna pagare, oh yeah, vabbè comunque. Che Dio ci aiuti a tutti quanti, io la gente la voglio sempre bene, no? Non c'è problema, ci mancherebbe altro, non voglio male, non voglio il male per nessuno perché capisco cosa vuol dire la sofferenza umana, ci mancherebbe altro. Vabbè, ciao di nuovo Tonino, grazie ancora per la chiacchierata, buona cena quando la fai, a risentirci presto, dai, è un piacere sempre ascoltarti. Vai Marco per salutare Tonino. Cappa. Ciao Torino, buon proseguimento di serata, da finché abbiamo fatto quasi le 8, no? Meno 20 hai detto, sì, dai, finalmente, perché questa serata veramente non passava più, meno male che al baracchino abbiamo passato il tempo, dai. E tanto non potevo uscire né niente, poi il tempo è peggiorato, quindi tantomeno. Ciao, buona proseguimento di serata, sentiamo le prossime. Cappa. E Giulio ti dirò in più una cosa, addirittura mamma entrava con quel baracchino che aveva solo 5 watt, entrava nelle colonnine del cinema Ariston. Io una volta sono andato a vedere un film e ho sentito la vocina di mamma un po' bassina, ma nelle casse si sentiva, e dice che c'era all'epoca Mucchiera, non so se Guarino o chi prima di lui, che non ne poteva più la vita, stava cercando di capire da dove arrivava questo disturbo. C'è esso. Scusa, un attimino per il finalino. Volevo puntualizzare soltanto una cosa, Giulio, non sei vecchio, sei anziano. Ricordi che la vecchiaia è molto molto di più, quando uno non riesce neanche quasi quasi a uscire da casa. Quindi, grazie a Dio, te le mantieni abbastanza bene i tuoi anni. Ok, di nuovo grazie per il finalino che mi avete concesso, ci sentiamo. Ciao a tutti, cuore tango, riprendi Giulio. Ok, grazie a te allora per l'apprezzamento Tony, ci sentiamo alle prossime, dai, è sempre un piacere, ripeto, dialogare con te. Beh, adesso mi ha fatto venire in mente un incontro che ho fatto ieri di un amico che appunto gareggiava anche lui, faceva il podista quando lo facevo io. E io da lontano questo l'ho visto e l'ho riconosciuto. Quando era vicino a me ho detto esattamente queste parole. Gavino Sasso, sì, si è fermato. Ha fatto sì, sì, mi fa. Ah, non mi conosci? Gli ho fatto, no, io ti ho riconosciuto subito dopo 60 anni, non dopo due giorni, dopo 60 anni, ed era con la moglie quest'uomo, no? Ha fatto, no, non mi ricordo così. Ha fatto, allora gli ho detto, sono Giulio, così e così, no, il marciatore della Polisportiva Sanese. Ah, Giulio, insomma, allora si è ricordato. Poi alla fine le ho chiesto quanti anni aveva, dice io ne ho compiuto 81, gli ho detto tu quanti ne hai? Io ne ho 87, ah vabbè, pazienza, sei un po' più vecchio di me, per cui però è interessante stare sempre in buona salute. Per dirti no, la memoria grazie a Dio ancora ce l'ho, Tony. Lui invece evidentemente non ho, mi aveva perso di vista, perlomeno la mia fisionomia l'aveva perduta. E succede, succede anche quello nella vita. Pazienza, dai. Avanti Marco. Sì, credevo, aspettavo una risposta, vabbè, comunque già l'ha sentito il passaggio. Beh, a te la memoria è la mia, un po', almeno per cose, non mi vengono i nomi degli attori, i nomi dei cantanti, quelle cose lì, come dicevo prima mi venivano meglio, adesso sto cominciando un pochino. D'altronde io la memoria non l'ho mai allenata, è stata una mia grave pecca, non solo la memoria, anche il corpo, vabbè, lasciamo perdere. E niente sport, e poi lo pagherò, lo sto già pagando in realtà. Ok, drammatizziamo, hai capito la storia del cinema, Giulio? E quindi siamo dovuti correre ai ripari e prendere nel 86 mi pare questo FM500S che almeno era omologato e pare che abbia risolto credo tutti i problemi di TVI, ma l'altro era una cosa micidiale. Quel baracchino c'era stato donato all'epoca da Marco Mandingo, che ce l'aveva in riparazione da Mario Notari. La riparazione costava 30.000 lire e siccome lui aveva altri apparati ha detto guarda, dice io ve lo lascio, se vi pagate la riparazione ve lo tenete, insomma, è come io se stiamo pagando 30.000 lire. La ricezione era ottima, la trasmissione lo stesso, era proprio forte di modulazione, però limpida e squillante, poi con la voce di una donna non ne parliamo. Perché lo usava mamma quello per modulare soprattutto, però il TVI era una cosa mala, mai vista una cosa del genere, nemmeno con lineare, nulla. Poi sai cos'è, l'antenna noi ce l'avevamo bassa rispetto ai palazzi che disturbavamo che erano più in alto, era una cosa terrificante. Sì, sì Marco, ce l'ho avuto anch'io quel barchino lì, 500S ho avuto io, l'avevo acquistato lì da Cineradio al Micico Garibaldi lì, da come si chiama? Dal tedesco mi sembra che fosse stato quell'uomo radiotecnico, un bravissimo radiotecnico che ha svolto l'attività per tanti anni qui a Sassari, perché c'era Brede Graziano, poi c'era quello che non mi ricordo, ripeto, come si chiama, e l'avevo comprato proprio in quel periodo, in quegli anni lì, e poi gli avevo fatto una piccola modifica perché avevo una rivista, un ciclo elettronico mi sembra che fosse allora in quel periodo. C'era la modifica relativa a quel baracchino e a tutti i baracchini che avessero lo stesso integrato, lo stesso numero di integrato. Si trattava di saldare un filo dal rotore dei canali e spostarlo in un'altra posizione. L'avevo fatto, siccome quello che avevo io era 34 canali, forse dopo hanno fatto una versione 40 canali, ma io avevo quella 34 canali e l'ho portata a 52 canali, l'ho portato quello lì, a differenza di altri che il canale 40 come numero non esisteva, però io lo ottenevo come numero 40 sull'1 e 2 messo a metà, a cavallo fra l'1 e 2, mettevo canale cioè canale 1, giravo appena prima di riuscire ad arrivare al 2 mi si appariva il canale 40, poi per numerato e non c'erano problemi o Marco, quella era una modifica che avevo fatto io a quei tempi. Cappa, sì, lì potevi fare degli accorgimenti per avere il doppio dei canali, sì. E molti baracchini dell'epoca permettevano di farlo, almeno quelli più noti, più diffusi. Ho sentito un fischio sopra, chi vuole entrare? Le persone invece del canale 40 lo ottenevano forzando o arrivato al canale 23 o quanto era, forzavano il commutatore dei canali, c'era un bloccaggio di plastica, si rompeva quello e riuscivano ad ottenere il canale 40, mentre invece io non ho avuto bisogno di fare quello perché ho scoperto come si poteva trovare, capito? Marco, tutto lì. E ho sentito parlare anche di VFO collegati a certe radio dell'epoca, e praticamente è come che avessi i canali in più e per giunta a sintonia continua con l'UFO. Ascolta, ho trovato una foto di quel baracchino lì, però non vedo la sigla. X-Tal, ma non vedo il modello. Bello, se tu guardi lo smitter sembra una specie di radiogoniometro, ti mando la foto, Ok, sì, io ripeto, ce l'ho avuto, poi l'avevo dato a mio fratello, l'avevo dato insieme ad un'antenna, perché lui nel frattempo si aveva fatto un negozio di rivendita di bombole, nonostante che anche lui avesse una falegnameria, però ha aperto anche un'altra attività e vendeva bombole, e dunque quello lì ce l'aveva la moglie nel negozio e lui nel motocarro quando andava a portare le bombole, appunto con un altro baracchino. E dunque poi che fine ha fatto non lo so, perché poi si è venduto anche il negozio e ha chiuso naturalmente perché anda anche lui in pensione, eccetera eccetera. Sì, no, il VFO io l'avevo attaccato al Pony 23 canali, quello stazione base, l'avevo attaccato al transistor oscillatore ed era un VFO della Elt Elettronica, ma era micidiale nel senso che prendevo qualsiasi radio del mondo, tutti indistintamente, Marco, era efficacissimo quel VFO della Elt Elettronica, vai. Ecco qua, mandato, e l'apparecchio è proprio quello. Aveva una cosa strana: mentre tutti andavano a modulare sul canale 23, quello classico, quello aveva un canale chiamato il 23, però risultava il 24 degli apparecchi normali, arrivava fino al 22 e poi il 23 risultava essere come frequenza il 24. Perché tu sai che il 23 i canali sono tutti messi strani, no? Arriva al 22, poi il 23 è quello molto più in alto come frequenza, poi si torna al 24, al 25, e vabbè, già hai capito cosa intendo, no? Era sfasato rispetto agli altri baracchini. Sì, perché era un 34 canali, perché ne aveva al massimo 34, e dunque c'era questo spostamento, il numero 23 era un altro canale, il 22 non è, se non mi ricordo bene, però il 24 era relativo al canale 23 tradizionale dei 40 canali, sì, era così, infatti è per quello che io avevo fatto quella modifica, spostando questo filo da un punto di saldatura che era bene indicato nello schema, eccetera, di questa rivista che avevo, che io li compravo sempre mensilmente, queste riviste, e mi aveva suggerito di fare questa modifica, questa rivista. No, ci ho provato e appunto ero riuscito, oltre a ottenere i 40 canali tradizionali, tradizionalissimi, poi sono passato addirittura ad arrivare ai 52 canali, che poi erano canali tutti di sotto, però quelli di oltre 40 erano tutti canali di sotto. Marco, avanti. Guarda a vedere se c'è alternata. Aspetta che alzo il volume. Prova a premere. Io sento come un leggero ma forse una ventola. Giulio, riesci a capirlo meglio? Sì, anch'io ho avuto la sensazione che sia una ventola, non lo so, però c'è un leggero, ma non è nemmeno un'alternata, Gianni, io lo definirei un rumore di fondo un po' eccessivo, più del solito, dai, tutto lì, suppongo che sia così, non so spiegarmelo. Vai Gianni. Sì, una è la ventola, vabbè, la ventola dell'alimentatore, che però vabbè, pensavo fosse meno rumorosa. Dai, comunque ho messo un filo di massa e vediamo un po' se l'alternata sparisce. Ok, Gianni, sì, però devo dirti che non ti dà nessun fastidio quando stai parlando, è tranquillo la modulazione, si sente, però ripeto, fastidio non te ne dà nella maniera più assoluta, come se non ci fosse in pratica, se uno non ci fa caso non la sente nemmeno. Vai Marco. Poi già io con questo orecchio certe frequenze non le sento, a meno che non sia proprio palese l'alternata. Ho alzato anche il volume, sì, sentivo sto leggero però sembra più una ventola, va bene. Vai Gianni sta trovando e sta cercando il rimedio, e può essere anche quello una questione di massa, non è quello. Oh, Gianni, guarda, un consiglio, perché a volte anch'io distrattamente non stacco. Io ad esempio lì qui da me ho un caricabatteria dei telefonini, no? Quando mi dimentico quello ho l'alternata anch'io, però quando appena me lo dicono stacco la spina dell'alimentatore, non sia dovuto a qualcosa che hai attaccato lì così, non so cosa dirti. O Gianni, prova a riprendere, vai. No assolutamente. Rimetti Gianni un attimo senza parlare. Si è abbassato moltissimo Gianni, cos'hai fatto? Hai allontanato il microfono dalla radio o qualcosa del genere, non lo so. Cosa? Ho detto che quel rumore che sembrava un rumore di fondo si è abbassato moltissimo. Se hai allontanato il microfono dalla radio, perché a volte può essere anche quello, se il microfono è troppo vicino alla radio può interferire anche quello. Insomma, ci sono, tu lo sai, l'elettronica è un po' diciamo vigliacca, nel senso che ha mille problemi, e se uno non lo scopre proprio a fondo non riesce proprio a eliminarlo. Ho detto che è quasi eliminato come rumore di fondo, vai. Scappa, no, adesso ce l'ho sopra il ginocchio, se io lo rimetto qua, guarda, lo rimetto vicino alla radio, guarda. È quello, guarda. Gianni, il motivo era quello. Sì, lo so che il motivo è quello, ma non riesco a toglierglielo, non ammala. Già, l'unico motivo è basta allontanarlo un pochino dalla radio e il microfono, ma non essere così pignolo, perché ripeto, non ti dà nessun fastidio, assolutamente niente. Aspetta un attimino, dai, che lo tolgo il filo di massa, tanto non ci sta a fare il... Ok, va bene, d'accordo. Avanti Marco. Eccomi qua, stavo cercando, sì, diciamo la foto più valida che è quella che ti ho mandato. Dovrebbe essere X-TAL 7, modello 7, una cosa del genere, la forma è quella. Peccato per il TVI, comunque già, qui abbiamo preso anche altro, siamo passati da quello all'FM500S, che io consideravo comunque cibo da mensa, giusto per avere l'omologato. Poi siamo passati all'ultimo dei tre, il Viking 2, il Samurai, che era praticamente come un flutto, ecco, col frequenzimetro, e lì già il miglioramento è stato netto come ricezione, non prendeva il battimento di tutti gli altri, eccetera. Sì, già ne abbiamo avuti di apparati, soldi poi vabbè, un po' sperperati, come faccio io del resto, è un mio vizio. Vabbè, Marco, d'altronde tu lo sai, no? Nel corso di tutti questi anni un po' tutti abbiamo speso abbastanza in questo genere di hubby, per cui non è un problema. No, io la verità non mi pento, ma poi alla fine mi sono disfatto di tutto praticamente, mi è rimasto il singolo, è un baracchino che mi aveva regalato Claudio, quello non l'ho mai dato perché era un regalo, dunque ve l'ho tenuto e ce l'ho sempre, ma per il resto di baracchini no, ho questo e basta, questo che sto usando adesso, no, non c'è problema. Quello che mi è dispiaciuto, il 789 della Sommerkamp, quello era bellissimo perché quello partiva da 25 sino a 32, una cosa del genere, ti puoi immaginare, però 32 sino a 32 in ascolto, se no era sino a 30 in trasmissione, 32 mi ricordo che era in ascolto, però era talmente complicato nell'usarlo che se non lo usavi frequentemente perdevi il modo come usare, ti faceva diventare pazzo. Alla fine me ne sono disfatto, no? E così almeno non ce l'ho e non ci penso più. Era un bel apparecchio comunque, pensa che parlavo addirittura con Urbia in banda laterale, parlavo con quel baracchino in banda laterale ai tempi di Serafino, il pastore di Usilo, facevo questo molto con lui, lui parlava con Urbia tranquillamente ed io riuscivo ad arrivare, io non lo sentivo Urbia, però facendomi ponte Serafino mi diceva benissimo, sì, ti senti abbastanza bene, così mi diceva lui, Marco. Cavolo, ma sarà stato simile a quello che aveva Saturno? Io l'avevo visto una volta nella sua bottega lì dove sviluppava le foto eccetera e faceva le stampe. capo, l'avevo in Sommer Camp, mi pare col DX finale o GX, c'aveva lo stesso 1000 canali, aveva la banda laterale, forse anche il frequenzimetro, e c'aveva uno scatto di canali strano anche, non era normale, faceva un doppio clic a ogni cambio canale, e se tenevi premuta questa levetta di canali, i canali correvano come un cambio canale rapido. Guarda, fa da scienza per me. Sì, me lo ricordo col baracchino di Saturno. Pensa che io ero andato anche a casa sua, lui abitava in campagna, verso la Crucca, mi sembra che sia quella località, eccetera. E un bel giorno stavamo rubando, di punto in bianco, tac, si blocca il baracchino e gli si era guastato. Poi non ho saputo più niente, se l'aveva aggiustato, eccetera, eccetera. Sì, l'ho conosciuto bene Saturno, mi ricordo che aveva con l'antenna la Firenze 2, se ricordo bene, o qualcosa del genere, lì sopra il negozio dove lui lavorava, tranquillo e pacifico. Usciva molto bene, usciva veramente molto bene Saturno, sì, l'ho conosciuto benissimo anche come persona. Vai Marco. Sì, diciamo che lo vedo spesso Saturno, tra virgolette, perché ha il loculo quasi a fianco a quello di nonno, mi pare due posti più là c'è il nonno, non proprio a fianco ma quasi, intanto lo vedo, un saluto, dovunque sia, un saluto. Ah, non è morto? Saturno, c'è una D. Ah, morto è. Ma Saturno è il fotografo di Largo Cavallotti, c'è una D, è morto. Gamba. Sì, già me lo ricordo anch'io. Almeno 30 anni, Gianni, sarà morto almeno 30 anni, in cielo sì, anche lui, per carità. Era comunque una brava persona, a me piaceva quell'uomo come persona, era in gamba, veramente, era molto affabile, non c'era problemi. Era molto socievole tra l'altro. Vai Gianni. Oggi io ti devo dire una cosa, stai uscendo come se fossi strappato, ma non è che c'è il microfono troppo alto o qualche cosa che non va, perché a Marco lo sento benissimo, a te ti sento a scariche, qualche scarichetto. Abbasso appena il volume, vediamo. Ecco qua, ho abbassato di due tacche il volume, mi sono anche allontanato. No, ti spiego, siccome ce l'ho sul comodino il microfono e io ero col gomito appoggiato sul comodino, dunque ero molto vicino anche, così dovrebbe andare meglio, anche perché ho abbassato di due tacche il volume del microfono già. No, io ti sento sempre così, vabbè, non c'è problema. Avanti che ha fatto un break. Buonasera Mario Alberto Torres. Volevo salutare Giulio, ma Giulio, hai fatto qualcosa? Ciao anche a te Gianni, buonasera, naturalmente. Hai fatto qualcosa per arrivare così bene qui a Porto Torres in questi ultimi tempi? Hai cambiato l'antenna? Che è successo? Avanti. Oh, ciao Mario, ben ascoltato dopo tanto tempo. No, non ho fatto niente di particolare, ho aumentato le parti del baracchino, niente di più. Oh Mario, guarda, mi torno indietro, vediamo un po' se è così, diventa. Tu magari mi hai sentito così, come in questo momento mi hai sentito. Evidentemente adesso sono 2 watt, prima era qualche watt in più, però non mai più di 10, oh Mario, vai. Cappa, ecco perché. Allora, ti sentivo così bene, dico, mamma mia come arriva bene stasera. E infatti l'altra volta ti sentivo un po', diciamo così, un po' strano. Bene, dai, sono contento che comunque riesci ad arrivare bene. Anche se ho vitaminizzato, però va bene, non c'è problema, l'importante è sempre farti sentire. Niente, volevo salutarvi, quindi vi lascio comunque continuare la situazione. Vi ascolto volentieri, anche se a singhiozzo, perché sono indaffarato con delle cose. Ciao Gianni, anche a te, ciao Giulio, piacere avervi sentito, di nuovo a te Gianni, buona serata, ma non riprendo più, vi ascolto soltanto. A te Gianni. Ciao Mario, dai, buonasera anche a te. Ci fa piacere servirti, non c'è problema. Vabbè, troppo devo stancare anch'io. Stai uscendo abbastanza bene stasera, dai. Ti sento tutto bello chiaro. Rispetto all'orario normale che dovevo fare una cura, dai, ci sentiamo, riprendi pure Marco, comunque sono all'ascolto mentre faccio la cura, riprendi, buona serata a tutti, grazie per questo. Giulio, ciao, mi è sovramodulato. Vabbè, avanti Marco. Avete ripreso proprio nello stesso momento, nello stesso istante. Saluto Mario, se mi copia, lui arriva un 7:30, io sono al momento con 3 watt, che poi tra cavo perdite, barilotto, doppio PL, sicuramente arriverà un terzo di watt in antenna, forse la metà se va bene. K. Mario mi copi, vediamo se può rispondere, che è da farato però. Scusa Gianni, volevo salutare anche Marco. Scusa Marco, io non ti ho sentito prima, non pensavo che tu fossi in questo. Non me ne sono accorto per un momento, ti chiedo scusa e ti saluto. Però buonasera. Ciao Gianni, ciao Giulio, ciao Marco, a te di nuovo Gianni, che comunque ho sentito il tuo passaggio. Ciao ciao. Cappa, dai Mario, dai. Ci sentiamo, dai. Stasera stai scendo perfettamente, dai, una bella radio. Non so se che cosa hai fatto, però esci molto meglio di altre sere, anche più forte di Santiago. Cappa, mi puoi dare un controllo prima di andartene, Mario? Perfetto, allora, devo controllare te anche Marco. Marco mi arriva a 7, tu mi arrivi a 8, quasi 9, e lo stesso per Giulio che mi arriva a 8. Quindi arrivate tutti bene, vi sento abbastanza bene, senza nessun problema. Allora, quello che sto usando io in questo momento è un ICOM, ed è un ICOM che ho messo in vendita e probabilmente già venduto, però sì, è un apparato, insomma, che fa anche la 27. Non dovrei, ma vabbè, ma ve l'ho detto, non ditelo a nessuno. Avanti Gianni, con la buona serata, ma non ripreso più, rimani in ascolto. Per me fa Mario male a venderlo, Mario, poi vedi tu, perché esce benissimo di radio, è perfetta, è una bella radio, chiara, limpida. Non lo so, vedi tu. Vabbè, ma io ne ho troppi, questo è il problema. Troppa roba poi non la usi, hai capito? Quindi. Però sì, lo so, funziona molto bene. Infatti lo vendo una persona che secondo me è della zona e merita. Va bene, non dico altro. Bye bye, buona serata. Ciao ciao Mario, buona serata anche a te. Avanti Marco. Cappa, ciao Mario, buona serata. Dai, meno male che arrivo, dai. 7. Già, sono non recluso al momento. Però davvero, questo cavo, prima non ci pensavo, però da quando avevano fatto il danno lì, che ho dovuto mettere il barilotto, sono col pallino che contando già i metri di cavo perdo un terzo di watt, e quindi da 3 diventano 2. Se conti la doppia perdita del barilotto, anziché 2 watt potrebbe arrivarne 1,5 watt in antenna, ecco perché io tendo a mettere l'aiutino, no? Cioè di 50 watt magari ne arrivano 25-30 in antenna ed è già una cosa migliore, dai. Scusa Gianni, ma no dai, sono rientrato per fare finalino, perché poc'anzi come hai detto ci siamo sovramodulati, o qualcuno di voi l'ha detto, perché mi ero dimenticato di fare una cura che devo fare sempre in orario perfetto ed ero già 10 minuti in ritardo, dai. Adesso ho assunto la medicina che dovevo prendere, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianni, scusami, ma devo scendere per la cena anche, dai. Ciao Mario, se sei ancora all'ascolto, salutoni, ciao Marco, salutoni anche a te, salutoni a tutti, e per me QRT, dai, ascolto il finalino e dopodiché chiudo definitivamente, per stasera almeno. Vai Gianni, scusa ancora. Ma figurati, non c'è problema, dai, aveva rilanciato a me, ma tu sicuramente preso dal fattore che dovevi fare questa cura. Se sono medicine devi prendere orario, farlo sempre in orario perfetto, perché se no non ti fanno effetto, ma per 10 minuti non fa nulla. Ok, già, sì, infatti me l'ha portata da mia figlia la medicina, perché io ce l'avevo giù nel piano di sotto, per cui io me l'ho completamente dimenticato, vabbè, comunque ci ha pensato mia figlia. Ok, grazie ancora già, ancora scusa se ti ho sovramodulato, se ci siamo sovramodulati, anzi, perché non è che ti sovramodulo io, casomai sei tu che riesci a passare sempre nei confronti di tutti. Ciao Marco, salutoni, ciao a tutti quelli che sono all'ascolto, ciao Mario se sei ancora all'ascolto, Tonino se sei all'ascolto, Natalino e quanti ce ne sono, dai, salutoni a tutti, buonanotte a tutti, riprendi Marco. Ciao Giulio, buona cura. Anch'io in realtà dovrei farla orari, così ha raccomandato l'endocrinologo. Dice sarebbe meglio alla stessa ora, sì, invece orari non ne ho mai rispettato, e intanto vedo che non cambia niente, è importante farla. Ok, Ok, ciao Giulio, sentiamo, mi ha fatto piacere che sia rientrato dopo tanto. Anch'io non è che sia molto presente tutti i giorni, però ho tutto o niente io, perché siamo tutta la sera oppure sto una settimana magari che non entro. E così. Gianni, riprendi, vai per i saluti. Ehi, allora, ciao Giulio, non ti preoccupare, dai, sono cose che possono succedere a tutti. Vabbè, andava, succede molto spesso anche a me qui, non c'è problema. Saluto anche a Marco, dai, che sono alla porta di giù il cane, che è già tardi. Vi auguro una buona serata, anche a tutti gli amici che sono in ascolto, Natalino e via dicendo, dai, tutti gli ascoltoni. Andava, buona serata a tutti, doppio rucco e rete esecutivo. Ciao! Ciao Gianni, buona serata con tutto, buona passeggiata. Io adesso porto via questo carraggio di microfoni nel cassetto dove giusto che stiano. Cava gava. Certo, come vedi il normale va bene, se non meglio. Vabbè, così era tanto per usarli, mi sono. Cioè, vabbè, ciao già, ciao. Ciò che mi dispiace è che ho impegnato quasi mezza serata per fare questo trabacchetto e poi è la stessa cosa, quindi si la pile luci, non ne tocco più tanto, è solo quando mollo che si sente e basta, quindi se la gente è molto, ahia, ci sono persone molto ciliati che hanno l'orecchio fino, non me ne ha più finita, non tocco più nulla. Già, ma io sei, io non lo sentivo, ma sai perché non la sentivo? Tuttora io ho questa ventolina d'emergenza, cioè la ventolina della scarpetta. Ecco, io adesso sono nel silenzio quasi totale, tra virgolette, no? Però il mio orecchio non percepisce certe frequenze, no, se non me l'avessi detto non me ne sarei accorto, in poche parole. Ma infatti è una fesseria, è una cosa da niente. L'ho anche ascoltato io con le cuffie, è proprio una cosa percettibile, quando molla e basta. Allora, io adesso che ho spento la ventola, caspita l'orecchio, guarda che c'è una differenza incredibile da avere una ventolina vicino che gira e non averla. Adesso io me ne accorgo, è vero, c'è. Anzi, ti dirò che l'orecchio è quasi ristorato dall'assenza della ventola mia, la mia ventola. Allora me ne accorgo, però, oddio, non è così grave, dai, non è così incisiva, però diciamo che non dovrebbe esserci. Così non c'è, guarda. Pare di no. Praticamente non hai fatto altro che allontanare il mic dall'apparato. Esatto. E allora la soluzione migliore è quella. Certo, non so di quanto tu lo debba allontanare. Per esempio, se tu sei seduto davanti alla radio, di quanto lo devi allontanare? Mezzo metro, un metro? No, basta che me lo metta sulla gamba. Non sapevo di questa caratteristica o un difetto, non credo, magari una caratteristica con quegli apparecchi un po' datati, non saprei. Comunque già esce bene, cioè non hai problemi, basta lo metti sulla gamba o se c'hai qualche cosa per poggiarlo, e va che è un piacere. Ok, bene, io adesso faccio anch'io qualcos'altro. Di nuovo buona passeggiata, buona serata, buon tutto e ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, correti per me, ci sentiamo Marco, dai, stammi bene, ciao. 1, 2, 3. Però ce l'hai una ventolina di fondo, vero? Sì, l'alimentatore. Ah vabbè, allora quella che sento adesso è quella, ok. Ciao Gianni, ciao. Ciao.